quale contemplare un cielo immenso, il cielo immenso del nostro cuore. Ti ricordi, migravamo per giorni e giorni mentre ingoiavamo pagine di una storia mai vissuta, storia geomata e poesia di una lingua mai troppo diversa per non essere apprezzata. Via dalle lacrime mai versate per un uomo che non sia musica, via da quelle lacrime che il mondo ci chiede di versare per dei falsi idoli che non portano il nome. Via, via, via, via, via, via, via, via. Ti ricordi, ci nascondavamo da confessioni affettuose, da spogliarelli della nostra anima. Abbiamo sempre odiato compromessi e via di mezzo, o bianco o nero, vivo o morto, e la vergogna non ci ha mai sorprese. Ti ricordi scudi, muri crudi, nudi, un cuore in un labirinto senza il filo d'Arianna. Le lacrime mai versate per un uomo che non sia musica, via da quelle lacrime che il mondo ci chiede di versare per dei falsi idoli che non portano un nome. Dialogo con l'altra me, arrivederci.